Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa Europea di Radio 24. Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli. Cominciamo dalla BCE, ne abbiamo sentito parlare tanto, continueremo a sentirne parlare finché o questa crisi davvero finirà o magari ci saranno delle importanti novità sul fronte dei tassi o magari su quella famosa riforma del sistema delle banche e centrali europee che avranno un rapporto diverso con la Banca Centrale Europea. E allora iniziamo dalla Zeit, il settimanale tedesco che sapete è diretto da Giovanni De Lorenzo, che per metà è italiano, ha pubblicato un articolo che si intitola "I piani di Draghi fanno tremare Berlino". Sappiamo tutti quanto sia delicato il rapporto tra la Banca Centrale Europea e la Germania, in particolare la Bundesbank, la banca centrale tedesca. Questo articolo è stato ripreso da Internazionale, che trovate da ieri in edicola, e ve ne leggo una prima parte. Mario Draghi ha deciso. Il presidente della Banca Centrale Europea vuole comprare titoli di Stato dei paesi dell'Eurozona per sostenere l'economia. I preparativi sono già in corso e, a quanto si sa, il consiglio direttivo della BCE potrebbe approvare il piano già nella prossima seduta, prevista per il 22 gennaio. Cioè lunedì. Quel giorno sorgerà un problema per Angela Merkel, perché in Germania non c'è un tema economico più dibattuto. 3 anni fa, quando la BCE aveva fatto un'operazione simile, gli avversari della cancelliera si erano rivolti alla Corte Costituzionale, sostenendo che gli acquisti finanziavano i paesi in crisi, un fatto inammissibile. E vedremo, insomma, lunedì che cosa veramente poi succederà in questa riunione della BCE e vedremo veramente quali saranno le reazioni di Angela Merkel. Un'altra questione attualissima è quella della Russia, la Russia di Putin, il crollo del rublo legato anche al crollo del prezzo del petrolio. E allora, sempre da Internazionale, che ha ripreso un articolo di Financial Times, vi segnalo questo articolo che si chiama appunto "Il petrolio e i conflitti nella strategia di Putin". Anche in questo caso vi leggo la prima parte. Durante la sua permanenza al Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin ha potuto contare su 2 punti di forza: l'alto prezzo del petrolio e il patriottismo che è riuscito ad alimentare scatenando conflitti regionali. Ma il prezzo del petrolio sta crollando e non è detto che a Putin basterà affidarsi alla mobilitazione patriottica dei russi. Nell'ultimo decennio ci sono state 2 fasi in cui il prezzo del petrolio è stato particolarmente alto. La prima è finita nel 2008 con la crisi finanziaria. Ricorderete, aggiungo io, si identifica con questa data, il 2008, l'inizio della crisi, perché nel settembre del 2008 ci fu il famoso, famigerato crollo della banca d'affari Lehman Brothers, che fu proprio un po' la scintilla, e da lì la crisi da cui potremmo dire il mondo non è proprio ancora uscito. Allora scrive ancora Financial Times, quindi la prima è finita nel 2008 con la crisi finanziaria e la seconda è cominciata 3 anni dopo, ma è già terminata. A metà dicembre il petrolio è sceso sotto i $60 al barile contro, pensate, i $105 di giugno. A proposito di Turchia, invece, un altro fatto che mi ha molto colpito questa settimana è questa svolta autocratica del premier Erdogan, che ha fatto di fatto una vera e propria retata, cercando di eliminare tutti quei giornalisti che non gli sono proprio amici, che non sono proprio allineati alla sua posizione. E allora Zaman, questo quotidiano turco che possiamo leggere grazie alla meritoria, come dico sempre, opera del sito Europe.eu, che traduce articoli anche da lingue che non sono così facilmente accessibili o magari da siti che sono in lingue straniere e non hanno la traduzione in inglese. Ecco allora da Zaman un articolo del 15 dicembre scorso retata nei mezzi di informazione turchi, in quella che viene definita una giornata nera per la democrazia. Era infatti lunedì scorso, 31 persone in tutto, dirigenti dei mezzi di informazione, direttori e produttori di serie televisive sono state arrestate dalla polizia turca in diverse località del paese. Sono accusate di aver formato, diretto o di far parte di un'organizzazione terrorista di frode e di diffamazione, il cui caporedattore Ekrem Dumanli fa parte delle persone arrestate, insieme a Hidayet Karaka, direttore del gruppo televisivo Samaniolu. Allora capite che sicuramente quando si fanno queste operazioni appunto totalmente antidemocratiche si cercano delle scuse, in questo caso si accusano dei giornalisti di essere parte proprio di un'organizzazione terroristica. In realtà, scrive Zaman, che cosa è successo? Che questi giornalisti avevano criticato il governo soprattutto per tutti quei casi di corruzione lo hanno colpito. Era successo un anno fa e Erdogan non ha mai digerito quell'operazione semplicemente naturale per dei giornalisti di fare appunto la cronaca di quello che stava succedendo. Passiamo a un altro paese, a un altro argomento, ma per poi capire che tutto sommato quello che succede in Italia spesso succede anche all'estero. In questo caso si tratta dello sciopero generale che ha bloccato il Belgio, un po' come quello che aveva quasi bloccato l'Italia 10 giorni fa. Scrive Le Soir, il 15 dicembre, uno sciopero generale, il secondo da quando si è insediato il governo liberal conservatore di Charles Michel, cioè a inizio ottobre, quindi insomma due scioperi generali in poco più di 2 mesi è un record abbastanza negativo. Quindi questo sciopero ha paralizzato il paese per 24 ore, aeroporti chiusi, treni, tram, autobus fermi, scuole e asili nido chiusi, ospedali al minimo. Numerose aziende sono state costrette a chiudere perché i dipendenti non sono riusciti a arrivare al lavoro o perché dei picchetti ne bloccavano l'ingresso. I principali sindacati che hanno indetto lo sciopero volevano protestare contro il piano di austerity, anche qui suona familiare, da 11 miliardi di euro del governo conservatore liberale appunto di Michel, e in particolare contro i tagli ai servizi pubblici, la cultura e i trasporti, contro lo spostamento dell'età pensionabile da 65 a 67 anni che in Belgio dovrebbe scattare nel 2030 e contro la fine dell'indicizzazione degli stipendi sull'inflazione. Ma abbiamo parlato della Russia, abbiamo letto un articolo del Financial Times, vediamola un po' la questione dall'altra parte, cioè direttamente dalla Russia. Allora, con questo quotidiano Kommersant, sempre vi segnalo questo articolo sempre grazie a presseuropa.eu, il titolo dell'articolo è Il rublo perso, vi leggo la prima parte: sembra inarrestabile la caduta della valuta russa con il prezzo del petrolio in calo e le sanzioni occidentali che mettono sotto pressione l'economia del paese. In quella che Kommersant definisce una manovra storica, la banca centrale russa è intervenuta il 15 dicembre portando il tasso di sconto dal 10,5% al 17% per limitare il deprezzamento del rublo e il rischio di inflazione. Il rublo ha perso il 9,4% rispetto al dollaro in un solo giorno, lunedì appunto, portando la svalutazione rispetto alla moneta americana al 50% dall'inizio dell'anno. La BCR, cioè la banca centrale russa, ha anche detto che nel suo rapporto di dicembre che le previsioni di crescita per il 2015 indicano una crescita negativa del 4%, che il quotidiano di Mosca ha definito una recessione dolce. Ma passiamo a un altro argomento che però è legato in parte alla Turchia, perché sapete che di una possibile entrata della Turchia nell'Unione Europea si parla da molti anni, e naturalmente una delle prime reazioni di tanti leader europei alla retata di giornalisti di questa settimana che sta per finire era stata: se Erdogan pensa di poter candidarsi all'entrata nell'Unione Europea senza rispettare questi standard minimi di democrazia, si sbaglia. Ed ecco, allora parliamo di allargamento, che è un tema, comunque siamo già in 25 nell'Unione Europea, ma si parla di un ulteriore allargamento. The Volkskrant, che è un quotidiano olandese, ha pubblicato questo articolo che si chiama Allargamento dell'Unione Europea 2004-2014, l'ascesa dei diplomatici d'Europa orientale. Nel 2004 i diplomatici dei nuovi stati membri dell'Unione Europea si aggiravano come Alice nel Paese delle Meraviglie nella capitale europea, cioè Bruxelles, scrive appunto il quotidiano, che grazie al suo corrispondente per l'Unione Europea, che si chiama Mark Peppercorn, pampepato letteralmente. A distanza di 10 anni, invece, ormai sono padroni della lingua segreta di Bruxelles e sono diventati uguali ai rappresentanti degli Stati membri. I primi anni dell'Unione Europea, in ogni caso, non furono facili, dopo che il 1 maggio 2004 il più grande allargamento dell'Unione divenne realtà con l'ingresso, forse ce lo siamo dimenticati, ma fu un avvenimento storico contemporaneo, di Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro e Malta. Ed è molto divertente questo articolo, perché appunto ci apre un pochino una finestra su quello che succede a Bruxelles. Era purtroppo l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Ci sentiamo però domani per la rassegna italiana, e intanto vi auguro ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.